Gobbolino e il cavallino di legno. La luce dell'alba rischiarava appena la caverna quando Gobbolino e il cavallino di legno si svegliarono e videro Sutica sulla soglia. Era furiosa. «Ah, oh, sei sempre lì!» miagolò con i verdi occhi scintillanti che mandavano lampi. «Avevi detto di essere venuto a salvarmi e mi hai già abbandonato al mio destino!» «Oh no, sorella, no davvero!» protestò Gobbolino saltando in piedi e strofinandosi gli occhi ancora assonnati. «Sono pronto, sono pronto!» «Allora, dai qua la tua zampa bianca, fratello!» Gobbolino tese la zampina e Sutica gliela imbrattò di nero, così non si sarebbe visto che lui aveva una zampina diversa dalle altre. «Ora le tue quattro zampe sono nere come le mie», disse Sutica, «e ricordati che la strega è quasi cieca, perciò se tieni gli occhi semichiusi non si accorgerà che sono blu e non verdi». «Probabilmente non ti vedrà nemmeno, perché di solito dorme fino al tramonto». Sutica e Gobbolino uscirono dalla caverna e fecero di corsa lo stretto sentiero che li separava dalla cima della montagna tempestosa. Il cavallino di legno li seguiva a breve distanza, ma ad un tratto Sutica si voltò e soffiò. «Torna indietro! I tuoi zoccoli di legno fanno troppo rumore e la mia padrona potrebbe svegliarsi e vederti!» A testa bassa, il cavallino di legno si fermò, poi si girò e cominciò a scendere lentamente il sentiero. Gli sembrava che i due gattini se ne fossero andati da ore, quando Sutica gli passò accanto come un fulmine. «Me ne sto andando!» gridò con una selvaggia risata di trionfo. «E mio fratello ha preso il mio posto! Se ha fortuna ti raggiungerà verso mezzogiorno nella caverna dove eravate stamani e allora potrete seguirmi al di là del fiume. State attenti! Addio!» Se il tempo passava lentamente per il cavallino, passava ancor più lento per Gobbolino, che si era accoccolato in un angolo della brutta caverna, accanto alla terribile vecchia. Stava rannicchiato fra le ragnatele e la polvere, sperando che non lo notasse quando si sarebbe svegliata. Sutica gli aveva assicurato che non si svegliava mai fino al tramonto. Ma non era ancora mezzogiorno quando il suo ronfare si fece più leggero, per cessare poi del tutto. Il terrore gelò Gobbolino quando sentì il suo passo strascicato. Si era svegliata. «Sutica, bofonchio, Sutica, dove sei?» Camminò tutto intorno alla caverna, brontolando e chiamandola. Poi trovò il suo bastone e cominciò a frugare negli angoli. Quando passò per la terza volta vicino a Gobbolino, con la punta del bastone lo pungolò nelle costole ed esclamò: «Ah, sei qui, pigraccia buona a niente! Perché non hai risposto quando ti ho chiamato? Vai a vedere se l'acqua del calderone è abbastanza calda! Voglio che al tramonto sia bollente!» Gobbolino pensò che la cosa migliore fosse obbedire. Strisciò fino al calderone e appoggiò una zampetta sull'orlo. «Non così, gatta pigra! Alzati sulle zampe di dietro e metti una zampa dentro!» La strega si avvicinò per vedere se davvero metteva la zampa nel liquido bollente. «Non quella zampa!» stridette la strega. «Te l'ho detta mille volte! Devi sempre rimescolare un incantesimo con la zampa sinistra! Avanti! Dimmi se si scalda!» Gobbolino fu obbligato a fare quello che lei comandava e la tinta nera sparì subito dalla sua zampina che scintillava candida nella caverna tenebrosa. Stupefatta, la strega la fissò con orrore. «Sutica! Sutica! Spregevole piccolo impostore, tu non sei la mia gatta!» Mi dispiace, signora!» boccheggiò Gobbolino aspettandosi di venire scaraventato giù dalla montagna tempestosa da un momento all'altro. Ma la strega invece lo osservava pensosamente. «Santa bianca, occhi blu!» mormorava. «Tu devi essere il fratello di quella gatta buona a nulla! E tanto tempo fa eravate tutte e due nella mia caverna, non è vero, gatto?» «Sì, signora, sì!» rispose Gobbolino abbassando a terra i suoi begli occhi blu. E che ci fai qui allora? E dov'è Sudica? Tuonò la strega. L'hai vista? Sì, l'ho vista, confessò Gobbolino. E dov'è ora? Dolente, signora, se n'è andata. Ora capisco tutto, si incollerì la strega. La mia gatta mi ha abbandonata e tu la sostituisci finché non sarà riuscita a scappare. È vero? Sì, signora, disse Gobbolino tremando e aspettandosi il peggio. Ma la strega si sedette sulla sua poltrona, dondolandosi avanti e indietro, piena di dolore. Perché mi ha lasciato? Perché? Gemeva. Le ho insegnato a essere la migliore gatta di strega del mondo. Perché? Avrebbe dovuto desiderare di lasciarmi qui sola ora, che sono vecchia e inabile. Non ero abbastanza malvagia per lei? La strega singhiozzava e piangeva così amaramente che Gobbolino provò pietà. Io credo che mia sorella si sia stufata di essere la gatta di una strega e desideri diventare buona, tanto per cambiare. Buona? Strillò la vecchia trasalendo. Ma come potrebbe diventare buona? È nata ed è stata allevata come una gatta di strega. Oh, che farò? Come farò? Singhiozzava. Come ha potuto spezzarmi il cuore? Gobbolino rimase così commosso che le saltò in grembo. Il sole lentamente traversò il cielo e cominciò a scendere dietro le montagne. Gobbolino capì che mezzodì era passato da un pezzo e che Sutica doveva essere già in salvo dall'altra parte del fiume. Ma il suo manto era bagnato di lacrime della strega e lui non aveva cuore di lasciarla sola, non ancora. Gobbolino si assopì e dormì per un paio d'ore. Quando si svegliò, l'entrata della caverna era inondata dal sole pomeridiano e sentì qualcuno che lo chiamava da fuori. Era il cavallino di legno. Gobbolino balzò giù e gli corse gioiosamente incontro. Oh, amico mio, ronfava. Vieni via immediatamente, disse il cavallino di legno. Dobbiamo andarci subito finché la strega dorme. No, no, intervenne Gobbolino. Non capisci? La povera vecchia ha il cuore spezzato per la perdita di Sutica. Non posso davvero fuggire e lasciarla tutta sola. Tu torna indietro, amico mio, e di ai miei che io tornerò fra qualche giorno. La strega improvvisamente si sedette a cavalcioni della seggiola e vide il cavallino di legno. E chi sei tu, in nome di tutte le stregonerie? Domandò. È il mio amico, signora, fece Gobbolino agitato, temendo che la strega trasformasse il cavallino in qualcosa di orrendo e che lo gettasse giù dalla montagna. Ma invece, stranamente, la strega offrì loro del cibo. Fate come a casa vostra, disse. Io tornerò fra un'ora o due. Uscì vacillando dalla caverna nell'oscurità incombente, trascinando la scopa dietro di sé. I due amici si sdraiarono insieme vicino al fuoco. Non è più così malvagia, disse Gobbolino, è solo una vecchia infelice. Quando però la vecchia tornò, non aveva niente di infelice e gongolava di gioia maligna. Nessuno mi lascerà più! Ora, esclamò, ho dipinto un anello magico con la mia scopa, tutto intorno ai piedi della montagna. Chiunque cerchi di oltrepassarlo brucerà e scomparirà per sempre. Vivremo tutti insieme, felicemente, miei cari piccoli amici. Per sempre! Per sempre!